Carissimi amici e amiche, bentornati. Un santo anno 2023 agli ascoltatori di questo ciclo di catechesi, specialmente quelli che lo sentono in diretta. Siamo ancora al 4 gennaio e quindi siamo ancora in tempo per fare gli auguri. Questa è la 19ª puntata del ciclo di catechesi dedicato al libro di Teneramata e apriamo oggi il 20º capitolo. Siamo poco più che leggermente più avanti rispetto alla metà di questo splendido libro. E anche oggi vorrei passare rapidamente alla lettura. Non mancheranno gradevoli e importanti sorprese, e anche, unite anche a comunicazioni importanti su cui evidentemente occorre ben riflettere e ben ponderare. Non esagererei troppo con i preamboli introduttori perché così facciamo in modo il 20º capitolo di potercelo gustare e anche magari un pochino commentare con l'aiuto del Signore integralmente. Quindi passo senza ulteriori indugi alla lettura. Sta parlando Teneramata e dice a Riccardo: "Guarda un'altra volta dalla finestra", disse la mia bella amica nuovamente di ottimo umore. "Riconosci chi è colei che sta molto vicina al tuo corpo infantile? Appresso il bambino timoroso stava un'altra Teneramata, o meglio, il suo corpo di quel tempo, immobile ed in atteggiamento di cantare. Molto bella, ma non come la Teneramata celeste che stava con me di fronte alla finestra. Hai forse due corpi. Uno è reale e l'altro apparente." Risposta: "Questo mio corpo accanto a te, dinanzi all'inferriata, è il medesimo che possiedo dentro il salotto, ma già glorificato è un secondo dopo questo preciso spazio-tempo in cui stiamo. Te lo spiego. Prima di venirti a trovare, presi il mio corpo di ragazza, di questo stesso salotto. Con l'intervallo di un secondo terrestre successivo alla fine del mio incontro con te." Attenzione, bisogna seguire bene questi passaggi. "Glorificai questo mio corpo mediante il possesso cosciente che la mia anima beata fece di lui, e gli comunicai maggiore bellezza per impressionarti di più, ma non molta, per non farti morire di felicità. Come vedi, la quinta dimensione fu la mia alleata, grazie al pieno dominio che noi beati abbiamo su di essa." Attenzione, questo è un passaggio fondamentale, questo qui, anche perché cominciano ad arrivare domande, ecco su, ma allora l'anima separata, il corpo, che succede, che non succede? Rileggiamo bene. Qualcuno mi, non so se avete fatto qualche commento o qualche mail, io ho detto, prima di fare le domande, aspettiamo che sto benedetto libro finisce. Dice, ma uno mi aveva chiesto, dice, ma se Teneramata la vedi col corpo, allora che è già risorta? No, perché la vista con il corpo, allora, che cosa ha fatto Teneramata? Ce l'ho spiegato qui. Prima di venirti a trovare, presi il mio corpo di ragazza di questo stesso salotto, quindi è entrata nella quinta dimensione con la sua anima glorificata, perché quello che è successo nel tempo permane, chiaro? Come ha fatto ad entrare in questa quinta dimensione? Perché c'ha l'anima glorificata, lo spiega. La mia anima glorificata ha potuto fare questo. Quindi sta rispondendo anche un'altra cosa, indirettamente. Cioè, se fosse stata dannata, certo che non può farlo un'anima dannata questa cosa qui. Non lo può fare. Non può. Rivediamo bene i passaggi, eh. prima di venirti a trovare, presi il mio corpo di ragazza di questo stesso salotto, cioè del salotto dove stavo cantandoti la pajarera, con l'intervallo di un secondo terrestre successivo alla fine del mio incontro con te. Cioè, Riccardo esce di casa, d'accordo? O esce di casa lei, si sa che è uscito prima, un secondo dopo questo commiato, lei prende quel corpo. E non solo. Questo mio corpo lo glorificai mediante il possesso cosciente che la mia anima beata fece di lui. E gli comunicai, altra cosa che possono fare i beati, maggiore bellezza per impressionarti di più, quindi ancora più bella di quando tu mi vedesti da bambino, ma non troppo, perché sennò altrimenti saresti morto di felicità. E conclude: come vedi, la quinta dimensione fu la mia alleata grazie al pieno dominio che noi beati abbiamo su di essa. Cioè, il pieno dominio sulla quinta dimensione, quindi poter fare anche questi, perdonatemi il termine, santi giochetti, è una caratteristica della gloria. Le anime beate possono fare questo, altre no. Né noi che siamo viatori, né tantomeno i dannati. Scusate, se non lo posso fare io che sono un viatore, quindi che potrei anche essere, speriamo, un'anima predestinata, speriamo, alla salvezza, figuriamoci, non lo posso fare io, che per caso io posso andarmene a 10 anni fa o a 20 anni fa, 25 facciamo, dai. Quando c'erano tutti quanti i capelli e dicevo adesso voglio sorprendere qualcuno, adesso gli appaio 25enne con i miei capelli riccioletti col gel, no, non posso fare. Ma se tutto va bene, un giorno potrò farlo, se tutto va bene. Speriamo, per me e per voi, ovviamente, no? Domanda. Perché hai preso il tuo corpo di un secondo successivo al nostro incontro? E risposta. Non devi attribuire alla quarta dimensione o tempo un valore eccessivo ed inviolabile che in realtà non ha. Ricorda che lo spazio e il tempo vanno insieme e che noi esseri corporei, noi siamo uomini, non siamo angeli, siamo costituiti dall'aggregazione ordinata e cronologica, attenzione, dei nostri atti di esistenza, realizzati e conservati nei loro rispettivi spazi, tempi istantanei e al ritmo dell'orologio. Quindi, io chi sono? Già da adesso, anche se, ricordiamo, ogni tanto faccio il ripasso, io adesso vedo soltanto l'ultima carta del mazzo, non le vedo tutte le altre, ma il mio essere, la mia persona, bellissima questa cosa qui, no? È costituita dall'aggregazione ordinata e cronologica di tutti i miei atti di esistenza, realizzati e conservati nei loro singoli e rispettivi spazi-tempi istantanei e che qui scorrono al ritmo dell'orologio, secondo dopo secondo. E si capisce per ogni essere vivente la serie di spazi e tempi praticamente infinita. Tuttavia, ogni atto di esistenza, con il suo rispettivo spazio-tempo, attenzione, è oggettivamente separabile nel cielo. È come una unità nella serie di atti vitali, cioè caratteristica nella quinta dimensione, questi atti scorrono così. Ma in cielo, quindi da parte di un'anima beata, sono separabili. È come una unità nella serie di spazi vitali. Attenzione che adesso qui fa un passaggio che dire fondamentale è dire poco. Attenzione a queste quattro cose che adesso spiega. Per meglio intravedere questo, devi tenere presente presenti queste quattro nozioni. Quattro. La prima, la quinta dimensione conserva per sempre la perpetuità dell'organismo totale terrestre e celeste, attenzione, di ogni beato. Ripeto, la quinta dimensione conserva per sempre la perpetuità dell'organismo totale, celeste e terrestre di ogni beato. Seconda, la glorificazione la riceve fondamentalmente l'anima spirituale, che è la forma sostanziale del corpo completo dell'uomo. E a sua volta l'anima glorifica un preciso spazio-tempo dell'organismo. Capito come funziona? Dopo, quando spiegherà meglio che cos'è la morte, perché la morte è un fatto reale, non è un fatto che non c'è, c'è. Ma l'anima glorificata già ci sta spiegando, dal momento che è la forma sostanziale del mio corpo, proprio nel momento in cui viene glorificata, ha la capacità di glorificare ogni spazio-tempo, anche appena morta, della mia esistenza terrena, cioè dell'esistenza terrena, della quinta dimensione, di tutto ciò che è stato depositato nel magazzino, come dire, perenne della quinta dimensione. E quale può glorificare ogni preciso spazio-tempo dell'organismo? Quale? Ah, quello che le conviene per godere ad un certo momento una determinata esperienza dilettevole della gloria accidentale. D'accordo? Ma vi rendete conto? Cioè, anche se uno fosse campato 23 anni, il mio grande amico Francesco. Chissà quanto ti sta a divertire adesso, no? Cioè, vogliamo provare a vedere quanti secondi ci sono in 23 anni di vita? Ricominciamo con le calcolatrici, no? Cominciamo dal momento del concepimento, poi, perché c'è anche il momento dai 9 mesi che siamo stati nel grembo della mamma, dobbiamo aggiungere anche quelli. Però capite che ogni secondo vuol dire che un minuto sono 60 secondi. Boh, cominciamo a fare questi giochetti, vuol dire che un'ora sono 360, no, non 360, sono 3600 secondi. Un'ora, che abbiamo già. Supponiamo che un'ora tu potessi avere 3600 spazi-tempi da glorificare, attenzione, da prenderli poi e anche spostarli a seconda dei tuoi piacimenti. Già, tu immagini se ne avessi 3600, ma questo è un'ora. Un giorno sono 24. Calcolatrice, vai. 3600 per 24. Attenzione con un giorno, Un giorno. 86.400. Non vi rendete conto? Noi arriviamo alla sera. Vabbè, c'è sta anche il tempo del sonno, grazie a Dio. Ma 86.400 atti di esistenza. In un giorno, che vogliamo fare? Una settimana? Vogliamo fare un mese? Moltiplichiamo questo 86.400 per 30? Vado, 86.400 per 30 fa 2.500.000, 2.592.000 in un mese? Un mese. Vogliamo fare un anno? Dobbiamo moltiplicarlo per 12. Vado, per 12. 31 milioni e 104 mila spazi di esistenza. Atti di esistenza. Vogliamo moltiplicarlo per una vita breve, come quella del mio amico Francesco. Come facciamo? Per 23. Vado, 715 milioni 392 mila atti di esistenza. C'era da divertirsi, mio amico? Solo con la gloria accidentale. In quale va Francesco adesso? Ah, in quello che in quel che in un determinato momento gli serve per godere una determinata esperienza dilettevole della gloria accidentale. Quindi questo è sempre uno di più rispetto alla gloria essenziale, eh? È sempre uno di più. Terza, capiamo, no? Terza, la sottigliezza dei corpi glorificati consiste nel pieno dominio della quinta dimensione o eternità creata. La sottigliezza, che sarà una caratteristica dei corpi glorificati dopo la risurrezione, a quanto Teneramata dice, viene conquistata, diciamo così, dall'anima nella quinta dimensione da subito. Questo è il concetto che dobbiamo capire che è, tra virgolette, nuovo. Ma d'altronde, se fosse tutto quanto noto, non sarebbe stato necessario rivelarlo, ma questo è come quando si parla, per esempio, con Luisa Piccardi di carattere di linea. È chiaro che la Процесс sostanza è выполнения nota, поставленных задач, ма выполняем се воздушное fosse тутто già патрулирование ноto, воздушных e 30 служб секунд non совместимости, sappiamo niente. выполняем прикрытие союзной авиации Quindi от ПО противника. stiamo Вследствие dentro, воздействия evidentemente le verità нашей авиации infede, наблюдается altrimenti резкое снижение активности ПВО evidentemente противника. sarebbero da bandire queste conoscenze, però ci dicono qualcosa di nuovo, se no che c'è da fare? Quindi, la sottigliezza dei corpi glorificati consiste nel pieno dominio della quinta dimensione. Attenzione, è la spiritualizzazione analogica della materia corporale, che si rende indipendente dall'ordine cronologico degli spazi e tempi normali della Terra, ancora, in cui ebbero realtà gli atti di esistenza. Allora, la sottigliezza dei corpi glorificati, per chi non lo conosce, la sottigliezza è che cos'è? Avete visto quando Gesù la sera di Pasqua che cosa fa? Entra nel cenacolo a porte chiuse. Allora significa che il nostro corpo, attenzione, che poi però dice toccatemi, quando una settimana dopo c'era San Tommaso che dice ah, ma io se non metto la mano nel costato non lo crederò, quindi entra a porte chiuse, però lo toccano, non è uno spirito, è una materia glorificata. Glorificata significa spiritualizzata, cioè che perde la pesantezza e la gravitas della materia attuale. Questo noi non possiamo capire, cioè i concetti teologici, questo San Tommaso lo spiega bene. Dice, noi vedendo così ci diciamo, ma com'è possibile se io vado contro il muro? Cioè, non ci passo attraverso il muro. Dopo, più avanti, lo spiega meglio. Spiega anche a livello di atomi che cosa succede nella materia glorificata e perché è possibile questa cosa, in parte. Lo spiega più avanti, così evitiamo poi di fare domande. Ecco. Però, quindi, la materia corporale viene analogicamente spiritualizzata, quindi comincia a godere di questa specifica peculiarità che è la sottigliezza del corpo glorificato. E al tempo stesso, però, questa materia glorificata si rende, volendo, indipendente dall'ordine cronologico degli spazi e tempi normali della Terra. È chiaro, perché altrimenti Teneramata non potrebbe stare adesso con Riccardo cinquantenne, con il corpo che ci aveva un secondo dopo, capite? Ha preso quel corpo e però l'ha fatto, diciamo così, giostrare fuori. Quindi togliendolo da quello spazio-tempo in cui stava operando. Ecco che significa che si rendono indipendenti dall'ordine cronologico degli spazi-tempi normali della Terra in cui ebbero realtà gli atti di esistenza. Tieni conto che noi glorificati non siamo spiriti puri. In questo paratempo tu godi in anticipo un po' della sottigliezza dei beati. Perché non siamo spiriti puri? Perché noi non siamo angeli. Non siamo angeli. L'anima si separerà, vediamo, dal cadavere, ma rimane sostanzialmente unita a tutti gli atti di esistenza compiuti nel tempo, col corpo. Quindi, il legame con il corpo non si perde mai completamente. Come vedremo, si perde realmente quello col cadavere. Quello sì. Perché la morte non è, ripeto, una finzione, è una realtà. Ma noi dobbiamo entrare nell'ottica che il prima non si cancella, non passa. Le nozioni del passato, del presente e del futuro, ricordate quante volte arrivo, sono soggettive, cioè sono legate a questa nostra dimensione, che è la quarta, non alla quinta. E in questo paratempo, questo ormai l'abbiamo capito, no? Tu godi in anticipo un po' della sottigliezza dei beati. Semplicemente per il fatto di starci in questo paratempo, perché, come abbiamo tante volte detto, una persona normale non può collocarsi in un quant'era, 1 e fratto 12 miliardi di picosecondo, non lo può fare. Quarta verità, quarta nozione, l'organismo totale dell'uomo beato, attenzione, è fisicamente scindibile in ognuno degli spazi, tempi o momenti infinitesimali della sua vita terrestre e celeste. $715.392.000 per una persona di 23 anni. È divisibile in ciascun atto della sua esistenza e in questo modo può vivere esperienze di glorie in onde temporali assai diverse, differenti da quelle che formano i suoi spazi, tempi originali. Questo è un altro concetto che noi cogliamo, ma non possiamo perfettamente cogliere, perché noi l'unica frequenza temporale che conosciamo, adesso non so se in fisica conoscono qualche altra cosa, ma noi comuni mortali, uomini della strada, è quella scandita dall'orologio. Noi non conosciamo la frequenza temporale del picosecondo, non la conosciamo. Adesso lei ce la sta, come dire, ce la sta narrando, ci sta mostrando una storia. Vedremo poi che quando, cioè, che quando Riccardo torna in sé, c'era ancora la sigaretta accesa. E insomma, mo è parecchio che stiamo parlando di tenera amata, no? La sigaretta accesa, reminiscenze di peccati arcaici, dura 5 minuti. Mica dura mesi, no? Spero che siano chiare queste cose. Questo è un passaggio veramente fondamentale, questo qui. Ti faccio un paragone. Supponiamo che tu scrivi su un foglio una frase. Una frase. Don Leonardo è un sacerdote. Questa frase, così facciamo gli esempi reali. Essa è rimasta formata realmente per sempre, ma tu puoi cambiarla di posto molte volte. Se la scrivi su un foglio. Se io scrivo Don Leonardo, un sacerdote, su un foglio, questo foglio in quanti posti lo posso mettere? Da dovunque. Potrei divertirmi e portarmelo dietro, lo faccio stare dovunque. Sul tavolo, sulla scrivania, sulla sedia, lo butto per terra, lo porto in salotto, lo metto sopra il mobile, lo metto dentro un libro. Dunque. In modo analogo, un atto della tua esistenza, insieme col suo inseparabile spazio-tempo, una volta fatto, può essere situato in molti altri luoghi, in diverse onde temporali. Perché l'atto esistenziale, con la sua materia, spazio e tempo originali, costituisce una realtà oggettiva e indipendente, quantunque faccia sempre parte dell'essere umano integrale. Pertanto, col consenso di Dio, ecco perché questa è roba da anime beate, perché Dio accondiscende, come spiega San Tommaso, tutti i nostri desideri in paradiso, nostro Signore li esaudisce tutti. Tutti perché? Perché non è possibile che ce ne venga uno che non sia conforme alla volontà di Dio. E quindi li esaudisce tutti. Col consenso di Dio ho fatto in modo che il mio corpo di ragazza passasse, vedete, dallo spazio-tempo, l'ho già detto prima, originale che vissi in questo salotto il 21 ottobre del 1923, al paratempo in cui ti sto visitando. Capite? Dai, qualcosa si capisce, proprio non tantissimo, però dai, qualcosa se uno fa attenzione si capisce. Poi come sia possibile non siamo in grado di farlo, però un po' si capisce, almeno io un po' capisco. Noi glorificati esercitiamo il pieno dominio sul nostro organismo integrale e sul complesso materiale, energie, spazio, tempo, eternità creata. Ricordiamoci anche il discorso delle energie, oltre che del tempo. Lui dice, è complicato. Ecco, all'ottava lettura, che questa sarà l'ottava, credo, questa commentata, è diventato un pochino meno complicato. Ah, certo che anche io alla prima lettura stavo un po' ubriaco. Ci sono alcune cose, amici cari, che purtroppo, questo mettiamocelo bene, cioè, chi ha studiato lo sa, vi racconto un'esperienza personale, cioè quando io stavo all'università io non sono mai andato a lezione, mai, per giurisprudenza, che c'è da fare a lezione, che tanto il professore di giurisprudenza fa il riassunto del libro, me leggo il libro e me lo imparo. Però sì, certo, solo che c'è un piccolo problema. Siccome io non sono intelligente come San Tommaso, lui andava dicendo in giro che non gli era mai successo di leggere qualunque autore, per quanto ostico e difficile, di non aver capito tutto quello che diceva alla prima lettura. Questa è roba da San Tommaso d'Aquino, non per noi poveri mortali. Allora, che succede? Le prime volte mi incaponivo, quindi arrivavo a un punto del libro, non capivo qualcosa e cominciavo, devo capire. E rileggevo, e non capivo. Un bel giorno mi venne l'ispirazione di Anagia, lascia perdere, va avanti, continua a leggere. È rimasta questa cosa che non abbiamo capito, pazienza. Se tu continui a leggere, arrivi alla fine e poi ricominci da capo. Seconda lettura, non ho capito manco stavolta. Va avanti, arriva alla fine. Terza lettura, alla fine, alla quarta o alla quinta lettura, capisci tutto, capisci. Perché hai assimilato anche tutta quanta un'altra serie di informazioni che sono comunque contenute in quel testo e che poi ti illumineranno e ti faranno capire quello che non avevi capito all'inizio. Quindi non è mai opportuno e nemmeno consigliabile incarognirsi, intestardirsi. Arriva alla fine e rileggi. Questo è il mio consiglio personale. Presto o tardi qualcosa raccapezzerai, però chiaramente, amici cari, ci vuole pazienza per alcune cose. Ripeto, se non siamo come San Tommaso d'Aquino, purtroppo no, nostro Signore ci viene incontro in tutti quanti i modi possibili. Già mezzo miracolo, insomma, no? Perché, come dice San Paolo, le cose spirituali non sono alla portata dell'uomo psichico, dell'uomo carnale, cioè sono comprese dalle persone che sono già un po' spirituali. All'obiezione è complicato, viene ramata e risponde: fai un altro sforzo. Ciò che avviene in ogni istante della vita umana è possibile separarlo oggettivamente nel cielo, poiché è un atto vitale di per sé isolato. Cioè, mo faccio un attimo lo schermo, no? C'ho l'Apple Pencil in mano, io faccio questa operazione. Ho alzato l'Apple Pencil per chi si sente il podcast e non vede il video. Questa operazione è un atto isolato, isolabile meglio. Anche ogni singola parola che sto dicendo in questa catechesi, scusate, non voglio parlare di me, ma dico questo perché è più facile forse capire, è un atto isolabile. possiamo, come dire, isolarlo, frazionarlo, non si sa in quanti modi, no? O per quali porzioni di tempo. È chiaro che tu, è come uno dei grani del lungo rosario dell'esistenza, ogni atto che noi facciamo. È chiaro che tu non riuscirai a separare fisicamente gli spazi-tempi dei tuoi eventi vitali. Tu no, perché? La sappiamo ormai la risposta, no? Perché noi siamo schiavi in catene, perché vivi con la coscienza inceppata nell'istante attuale. L'istante attuale è l'unica tua opportunità di fabbricare gli atti di esistenza terreni, i quali però, una volta costruiti, sono delle unità eterne ed in certo modo autonome, in certo qual modo. Quindi nel cielo è possibile separarle per godere meglio la gloria accidentale. Capito? Tenramata ha preso il corpo di un secondo dopo l'incontro con loro e l'ha spostato in un paratempo che, non è, che era 50 anni dopo rispetto al 21 ottobre del 1923. Spero che sia un pochino più chiaro. Obietta Riccardo, non si contrappongono l'atto di esistenza originale, cioè quello che fu vissuto in questo mondo, e quello che risulta dall'adoperare quello stesso spazio-tempo unitario per un nuovo esperimento nella gloria occidentale. Vedete che le domande le fa già lui. No, anzi, il fatto primitivo si esalta nel ripeterlo al vivo nel cielo. Non è che si contrappone, si esalta. Come in un'orchestra il suono dei piatti turchi, anziché coprire i suoni degli altri strumenti, li rafforza in intensità. Io personalmente questi piatti turchi non è che li conosco tanto, detto fra me e voi. Così gli spazi-tempi terrestri si accrescono nell'assaporarli di nuovo nelle onde temporali della beatitudine. Obietta ancora Riccardo, ma perché non hai tratto la tua fase temporale che vedo in questa casa simultaneamente col paratempo della nostra intervista? Dice, se lo faccio simultaneamente ci arriviamo pure noi, no? Perché non mi avresti trovata nel salotto presso il pianoforte. L'organismo materiale umano non è capace di bilocarsi come l'anima. È assurdo che un medesimo atto di esistenza occupi due spazi uguali e coincidenti. Due spazi-tempi, scusate, uguali e coincidenti. Gli spazi-tempi, insieme ai loro rispettivi atti di esistenza, si possono separare nell'eterna realtà oggettiva. Si possono separare, però attenzione, ma mai si confondono. Più avanti ti dimostrerò in che modo si comunicano tra di loro gli spazi-tempi umani nel cielo. Quindi è impossibile trarre simultaneamente quella fase corporale che lui vedeva in quella casa col paratempo dell'intervista. Perché un medesimo atto di esistenza non può occupare al tempo stesso, quindi appunto simultaneamente, due spazi-tempi uguali e coincidenti. Si scompongono gli atti di esistenza, ma non si confondono, ma non si confondono. È Riccardo in calza. Ciò nonostante, ti sto vedendo con due corpi. E lei obietta, risponde. È perché corrispondono a due differenti atti terreni della mia esistenza, Si tratta di due spazi-tempi differenti, sono separati dall'intervallo di un secondo terrestre. Inoltre, non dimenticare che il corpo mio, che si trova nel salotto, e quello che è con te di fronte alla finestra, si trovano in diverse onde temporali. Te ne farò una dimostrazione perché ti convinca che la mia unica anima spirituale sta animando i due corpi che di me stai osservando. Farò che il mio corpo, che è vicino al tuo di bambino, presso il pianoforte, si giri verso di noi. Guarda, questo è un altro spettacolo, eh? Fantastico! Il corpo di tenera amata, che non mostrava la glorificazione di quel momento, quello che sembrava cantare nel salotto, lasciò di essere una bella statua di cera, girò il volto verso la finestra e mi sorrise con affetto. Ah, mi aveva convinto. La prova evidente che lei esercitava pieno dominio sui due corpi che vedevo in lei. Ed è chiaro, sulle rimanenti fasi corporali, sugli spazi-tempi del suo organismo integrale, cioè se può fare questa cosa con quel corpo che lui sta vedendo, pur essendosi con il corpo glorificato di un momento successivo collocatosi in uno spazio-tempo differente e quindi per poter guardare la scena, è chiaro che può farlo con qualunque spazio-tempo del suo organismo integrale. Se lo può fare con uno, lo può fare con tutti. Non c'era più il tragico legame del viatore con l'istante attuale del tempo terrestre. Noi non lo possiamo fare queste cose. E qui c'è la grande domanda. C'è la grande domanda. Domanda a cui è impossibile rispondere, si può solo congetturare. Se non ci fosse stato il peccato originale, qualcosa di questa roba che sarebbe stata? Io qualche sospetto mi permetto di averlo, diciamo così. Quindi capite il maledetto peccato, quindi l'odio assoluto che dobbiamo concepire. Contro il peccato dobbiamo proprio concepire, cioè quando c'è proprio voglia di odiare. Dice, do la sfogo. Ah, guarda, se la vuoi sfogare, sfogala contro il peccato. Ha lì proprio odio assoluto, proprio odio implacabile. D'accordo? Proprio l'odio di quello che dice, se potessi lo sterminerei, lo strangolerei, lo strozzerei, lo annienterei. Come ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo sulla croce, è stato annientato a carissimo prezzo. E dopo tutte queste cose qui, Terra Novata fa la sua bella domandina. Che ne dici dell'esperienza che stai vivendo? Mi domandò con un gran sorriso la bella Terra Novata celeste. Che è meravigliosa. Ma non tanto come te stessa. L'amore che sentivo per te si è moltiplicato nel captare misteriosamente le mie emozioni infantili. E adesso sentite, infatti la mia eccessiva sensibilità, la mia ingenua autocritica di bambino, che avevo vissuto di nuovo appena un momento prima nella mia mente, gridavano con gioia e tristezza insieme. Lei canta una bella canzone e per la prima volta nella mia vita mi ispira qualcosa di molto piacevole, qualcosa che è bello e che non so definire, che non oso accettare. Deve essere l'amore. Anche se conosco appena il significato di questo termine. Mi sento immensamente difficile, ma non oso dire a me stesso che la amo. Poiché secondo le convinzioni con cui sono stato educato, l'amore, misteriosa parola, deve essere tabù per me. Lei mi attira moltissimo, in un modo diverso da quello dei miei parenti ed amici. Mi sono innamorato eppure non devo amarla, solo perché sono un bambino. È erano deficienze dell'educazione del mio tempo. E sentite che dice adesso qui, eh. Come mi dispiace che la mia timidezza di bambino e la mia paralisi di vecchio non mi abbiano consentito di darle nemmeno un bacio. Anche qui è stupendo. È l'amore. E come sappiamo, tenera amata era uno dei tanti amori stabiliti da Dio per la felicità accidentale delle sue creature. Iniziamo il capitolo 21? Ma sì, qualche affacciata possiamo dargliela. Questo è molto lungo, quindi abbiamo subito una grande informazione, eh? Molto importante, con la quale forse poi ci fermiamo e magari concludiamo. Tenera amata, possiedi attualmente tutto il tuo organismo integrale? Dovremmo già saper rispondere a questa domanda. Domandai desideroso di indagare l'aldilà. Risponde: quasi tutto. Mi manca il mio cadavere. E ne ho bisogno per essere pienamente felice. Perché l'istinto di integrità somatica è molto esigente nel cielo. È come se a te mancasse un dito. Ti rassegneresti, ma non saresti molto d'accordo con questa mutilazione. Ma grazie al nostro Dio, nella risurrezione finale, riacquisterò il cadavere che la morte mi tolse e godrò ancora di più nella gloria che mi ha concesso l'Altissimo. Capite che qui le verità di fede rimangono le stesse, ma cambia la percezione del loro significato. Per noi la morte è la fine di tutto, d'accordo? Cioè, nella testa nostra, nella testa di chiunque, penso. Con la morte, il passato è sepolto, il mio corpo muore, quindi rimane, noi pensiamo, l'anima, come dire, e basta. È normale che si pensi così, se uno non fa attenzione a queste cose. Ma non è così. Perché tutte quante le dimensioni del nostro corpo integrale rimangono. Però quella del cadavere si perde realmente. Perché la morte, ripeto, non ha un'apparenza. E che cos'è la risurrezione della carne? La restituzione del cadavere che la morte mi tolse. E questo che cosa comporta? Comporta che godrò ancora di più della gloria che mi ha concesso l'Altissimo. Non devi meravigliarti che io, essendo una glorificata, abbia un corpo umano reale e vero come il tuo. Ti ho già detto che l'organismo integrale dell'uomo è eterno sin dal concepimento. Ecco perché l'aborto è un delitto gravissimo. Perché, ma questo, cioè, vedete, le assurdità della nostra folle società contemporanea. Ma ce ne sono tante, ce ne sono, no? Cioè, adesso la scienza sa benissimo che dentro lo zigote c'è tutto il programma genetico della persona, tutto quanto, lo sappiamo. Anche se non ci sono ancora nemmeno le cellule staminali dentro lo zigote, non ci stanno. Arrivano molto presto, però, eh. C'è tutto. E nonostante questo si ostinano a dire che l'aborto si può fare perché tanto ammazzi un grumo di cellule. Queste sono proprio le pazzie assurde di quelli che si credono dotti e intelligenti. E in parte lo sono, perché insomma, grandi scoperte scientifiche sono state fatte con intelligenza, ma anche il diavolo è intelligentissimo. Il diavolo è intelligentissimo, allo stesso tempo è stupido. Perché voi capite, ma com'è possibile che una persona così intelligente, come era Lucifero, va a commettere il suo peccato originale, primo ed unico? Che rappresenta la sua rovina. Nella coscienza piena di tutto quello che sarebbe successo a causa di quel peccato, era fatto lo stesso. Questo, per quanto mi riguarda, forse mi sono perso qualcosa, forse mi sfugge qualcosa. Una cosa di questo genere è proprio la cosa più deficiente, più cretina che si possa fare. Eppure, quello è l'essere più intelligente. Il puro spirito più intelligente creato da Dio. Misterico. Quindi l'organismo integrale è eterno fin dal concepimento. È certo che il mio corpo integro si trova totalmente sottomesso alla mia anima, funzionando come un organismo materiale analogicamente spiritualizzato. Di nuovo ricorre questo termine. Ma io conservo tutti i miei atti di esistenza, tutti i miei cambiamenti terreni nei rispettivi spazi-tempi che mi è toccato vivere nel mondo. Spiegato benissimo, no? La risurrezione consisterà nel recupero del cadavere tornato alla vita, attenzione, e nel proseguimento del processo vitale, evolutivo e perfettissimo nel cielo. Cioè, che cosa sta dicendo? Cioè, il mio amico Francesco si può godere la sua corporalità nei 715.392.000 spazi-tempo che ci ha avuto, perché il suo corpo giace come un cadavere dal 23 maggio del 1993, da dopo dal 23, dal 3 maggio del 1993. Quindi è chiaro che il tempo trascorso da 93 a oggi non l'ha vissuto, cioè ricomincerà a vivere. La dimensione del futuro, quindi come dire, gli spazi-tempi in avanti, successivi, dopo la risurrezione. È chiaro. Quindi diceva, ma se così allora che serve la risurrezione? Come che serve? Serve come? Come che serve? Il cadavere è cadavere. Cioè, io da quel momento c'è uno stop, no? Nel mio organismo integrale, perché il cadavere è morto. Non è perso quello che c'era prima, ma si è fermato quello che viene dopo. Questo non è mica un dettaglio da nulla, no? Non lo è. Prosegue. La grazia in questa vita e la gloria nell'altra, questo è un principio di San Tommaso d'Aquino, proprio metteteci la mano sul fuoco, non alterano la natura dell'uomo. Gratia supponit naturam hac perficit, diceva San Tommaso d'Aquino. La grazia presuppone la natura e la porta alla perfezione, non la contraddice. Prosegue Tina Lamata. La grazia in questa vita e allora nell'altra non alterano la natura dell'uomo, anzi la presuppongono, la elevano e la perfezionano. Sta ripetendo quello che dice San Tommaso. Quindi, noi beati viviamo come superuomini, i veri superuomini, non quelli di Nietzsche. Quelli non sono superuomini, quelli sono superdemoni, quelli di Nietzsche. Con le qualità di sottigliezza, agilità, impassibilità ed altre ancora, le proprietà dei corpi glorificati. Ma godiamo la vita celeste con tutto il nostro essere umano, tale e quale lo conosci qui, per più superdotato che sia. E poi ricorda che cosa è l'eternità creata a quinta dimensione. L'essere umano è eterno, nel senso che già mai perirà nella vita futura, ma è eterno anche nel senso che tutte le sue fasi di sviluppo, tutti i suoi atti di esistenza, tutti i suoi spazi-tempi temporali, materiali, sin dallo stadio di cellula uovo, ad eccezione del cadavere, perdurano viventi senza termine, sia mentre viatore, sia nello stato di vita liberato nel cielo, nel parametro della quinta dimensione, ad eccezione del cadavere. Qui capisco che anche qui questo è un concetto che lei chiarifica abbastanza. Dobbiamo piano piano digerirlo, metabolizzarlo, d'accordo? E farlo, perché anche questo è qualcosa che sconvolge i nostri parametri abituali con cui ci approcciamo al problema morte e al problema post mortem che c'è e come si sta. Ogni atto vitale, qui attenzione, dice, ma dopo la morte si vive in stato di anime separate, sia la Chiesa. Certo, l'anima è separata dal cadavere. Dal cadavere c'è una separazione reale, non di ragione. Il problema è che tutti quanti gli spazi e tempi dell'eternità creata sono eterni. Si chiama eternità creata perché sono eterni, non si possono perdere. E quindi il contatto con la corporeità non si perde, non si perde in maniera definitiva, non si perde. Ogni atto vitale nel suo proprio spazio-tempo, ovvero unità di esistenza delle tappe biologiche vissute in questo mondo, quindi costituisce un'occasione di felicità nella gloria accidentale. Purché, questo lo sappiamo già, si sia vissuto in stato di grazia con il nostro Dio. Poiché, come ti ho spiegato, se siamo vissuti in peccato grave, quell'unità di esistenza sarà annientata nel ricevere il perdono divino. E qui attenzione, qui torniamo anche all'esempio fatto con gli spazi e tempi di Francesco, no? Don Pablo, assai opportunamente, questa è una nota sua, non è una nota dell'autore, dice, lo direi anch'io. Per esempio, se in una vita di 60 anni si è vissuto in grazia di Dio soltanto 10, morendo in grazia, si salvano quei 10 anni. Dice, per salvarsi basterebbe invocare di cuore il Signore almeno nell'ultimo istante, ma niente si improvvisa. Vi immaginate una persona, adesso qui no? Quindi che cosa significa? E se Francesco fosse vissuto in grazia solo 5 anni, di quei 23, questo numero diminuisce notevolmente. E quindi capiamo quante occasioni e possibilità di godimenti di gloria accidentale sono calati, una cifra. Poi, ascolta queste cose. E prova a vivere non stando in grazia di Dio. È la cosa più da deficienti, scusatemi, proprio più da scemi, più da pazzi che si possa fare. Ma capite perché la Chiesa queste cose già le sa la Chiesa con la C maiuscola, eh? Non mi ricordo se l'ha già detto Teneramato, lo dirà più avanti, che queste cose diventeranno oggetto di insegnamento del magistero autentico della Chiesa. Che cosa significa? Significa che la Chiesa queste cose già le sa. Già le sa. E già sapendole, pure quando non ne aveva ancora raggiunto la maturazione storica, perché allo stato attuale queste cose non sono entrate nel magistero della Chiesa così come le formula Teneramata. Non ci sono ancora. Ma ci saranno. Ma che cosa c'è stato sempre? Cosa ha sempre raccomandato la Chiesa? E i santi, vivi in grazia di Dio, vivi in grazia di Dio. Non perdere la grazia di Dio per nessun motivo. E se Dio non voglia dovesse essere capitato, ma sbrigati ad andare a recuperare perché perdi un sacco di tempo a correre dietro al peccato. Pazzie allo stato puro. Poiché, come ti ho spiegato, ripeto, se siamo vissuti in peccato grave, quella unità di esistenza sarà annientata nel ricevere il perdono divino. Rispondiamo a un'altra domanda che già mi hanno fatto. Se sarà annientata nel ricevere il perdono divino, per un dannato sarà annientata? No. E non perché se la possa godere, ma perché se la possa ricordare continuamente, soffrendo per essere vissuto in stato di inimicizia di Dio e per andare appresso a piaceri balordi, torbidi e schifosi, disprezzando la divina grazia. Come vedi, la conoscenza della quinta dimensione è uno sprone morale per poter perseverare con gioia nella schietta vita cristiana. Tanto per fare come si fa in certe serie TV, no? Che si finisce sul più bello, adesso finiamo sul più bello, perché la prossima domanda di Riccardo è: allora che cos'è la morte? Lo vediamo la prossima volta, perché adesso si aprirebbe un paragrafo davvero entusiasmante. Siamo già a 55 minuti, quasi 56 di conversazione e dobbiamo mettere punto, come diceva la buona Luisa Piccarreta. Ma ne parleremo la prossima volta. Di nuovo un santo anno a tutti e che Dio vi benedica e la Santa Vergine, tutti e sempre.